sera sul metro, dove andavo, forse ancora non lo so, ma pensavo certamente ai fatti miei, alla vita che ho vissuto, a quella che vorrei, donna di città. Donna di città. D'improvviso a una stazione che non so, tutto a un tratto sei salita su, ti sei seduta proprio lì di fronte a me, con il tuo vestito strano, arancione beige, donna di città. Arancione beige. Col seno in vista, quanto basta per colpire, un sorriso che disegna la tua faccia, poco trucco, quello giusto quanto basta, donna di città, na na na na na na na, donna di città, na na na na na na na. Dove arrivi e dove mai andrai? Da questa stazione in cui io non salgo mai. Sei grande come la città, come il vuoto dentro me. Questa vita a volte è fredda, come una tazza di caffè, donna di città. Donna di città, ma quanti anni hai? Donna di città, e quanti amori e quanti pianti avrai? Donna di città. D'improvviso a una stazione che non so, tutto a un tratto sei salita su, ti sei seduta proprio lì di fronte a me, con il tuo vestito strano, arancione beige, donna di città. Ehi, donna di città. Ehi, se non in vista, quanto basta per colpire, è un sorriso che disegna la tua faccia, poco trucco, quello giusto quanto basta, donna di città. Donna di città.